Sweet Home Alabama, una canzone che ci introduce al secondo tema di questa puntata dell'Indigesto, un tema che affronteremo in diretta insieme a Chiara Lalli, che io sono contentissima di avere qui con noi. Chiara Lalli è una filosofa, docente e saggista italiana, insegna bioetica e storia della medicina all'Università La Sapienza di Roma e ha scritto diversi saggi, diversi libri, tra cui uno intitolato La verità vi chiedo sull'aborto. Insomma, tanti veramente tante le pubblicazioni e i contributi alla bioetica. In ogni caso, insomma, appunto, sono contentissima di averti qui con noi e ti saluto. Grazie. E ti ringrazio intanto, ciao. Grazie a te. E appunto siamo insieme in collegamento per parlare di una legge di cui si è parlato molto negli ultimi giorni, da quando l'ha approvata il Senato. Ora è stata anche ratificata dalla governatrice dell'Alabama, una legge che fondamentalmente mette completamente fuori legge l'aborto, se non nel caso non meglio specificato in realtà di gravi rischi per la salute della madre. Allora, tu hai scritto un articolo molto interessante su questo tema, con una chiave di lettura anche un po' diversa da quella di buona parte degli articoli che si sono letti per Wired, in cui criticavi in qualche modo anche il modo in cui ci si è opposti, diciamo, a questa legge, il modo in cui la si è criticata, quindi sottolineando per esempio il fatto che fossero solo uomini ad averla approvata. Effettivamente questo lo mette già in crisi un po', il fatto che l'abbia ratificata una governatrice, oppure il fatto che si facesse riferimento più volte al fatto che anche donne vittime di stupro o di incesti non potranno abortire. Ti chiederei un po' di spiegarci questa critica. Sì, allora innanzitutto io cerco di fare un lavoro sugli argomenti e le argomentazioni, quindi naturalmente le questioni cui tu prima facevi riferimento non è che non siano, non possano essere rilevanti, importanti o dare adito a un dibattito, però dal punto di vista argomentativo dobbiamo provare a non inciampare in contraddizioni. Allora vado in ordine. Sulla questione sono uomini, a parte le smentite fattuali, insomma, nel rintracciare eventuali donne che hanno votato a favore o in questo caso specifico o in altri casi, insomma, non ci dobbiamo dimenticare che in tante altre circostanze ci sono state e ci saranno donne che approvano una normativa più restrittiva o condannano l'aborto come qualcosa di immorale, però ai fini dell'argomento non è molto rilevante chi la persona, cioè se è una donna o un uomo. Quello che dobbiamo provare a fare è se c'è una coerenza date alcune premesse. Qui veniamo alla seconda parte. La seconda parte potrebbe essere più o meno sintetizzata in questo modo, cioè se noi cerchiamo di stabilire l'immoralità e quindi poi anche l'illegalità di una pratica, di un servizio sanitario in base a l'attribuzione dei diritti all'embrione, quindi molte posizioni conservatrici si muovono dalla premessa che c'è un diritto fondamentale, che l'embrione è una persona, è già persona, quindi ha i nostri stessi diritti. Ecco, se prendiamo sul serio questa premessa, la cosiddetta eccezione dello stupro è una contraddizione, perché lo stupro, il modo attraverso il quale un embrione comincia a esistere, non intacca i suoi diritti, il suo statuto. Quindi, tenendo questa premessa, questa legge, che è criticabile ovviamente come legge e potremmo definirla anche moralmente ripugnante, giuridicamente dissennata, questa legge però è coerente. Questo non significa che dobbiamo tenerci le conseguenze, significa che non possiamo limitarci a criticare l'ultimo anello di un ragionamento, ma dobbiamo risalire alla premessa. Quello di cui dobbiamo discutere, dovremmo imparare a discutere, è per quale ragione, perché condanniamo l'aborto, perché lo consideriamo immorale e perché alcune persone vogliono riportarlo a essere legale. E credo che la parte argomentativa ci possa essere utile per essere un po' più forti e per essere un po' più capaci di rispondere, quindi non indignandoci, che poi serve sempre a poco, rispetto a quest'ultimo fenomeno, storicamente intendo quest'ultimo cronologicamente, ma discutendo proprio l'attribuzione di diritti o altre premesse che ci servono per dire non si deve abortire, deve tornare a essere illegale, perché consideriamo l'interruzione volontaria di gravidanza alla pari, mantenendo quella assolute alla pari di un omicidio. Se io interrompo una gravidanza e sono convinto che quell'embrione è una persona come noi, beh, insomma, l'interruzione di gravidanza, l'aborto volontario diventa analogo a un vero e proprio omicidio. Quindi diciamo, intanto ti chiedo di rimanere fermissima dove eri nell'ultimo secondo, perché per un attimo è caduta un pochino la linea, c'è stato un po' qualche disturbo, ma proviamo a continuare ancora un attimo questa discussione, anche perché è molto interessante. Ti chiederei, diciamo, quindi il problema fondamentalmente è quello quando ci si, in qualche modo, diciamo, si difende l'aborto, ma leggendolo come male minore in qualche modo, quindi come un più che come male minore, come male necessario. Esatto, ecco, è una posizione un po' rischiosa e questo l'abbiamo anche visto nel tempo, perché sostenere, per esempio, come spesso sentiamo dire, che l'aborto deve essere legalmente accessibile perché altrimenti le donne fanno ricorso all'aborto clandestino e muoiono, è senz'altro importante, come dicevo prima, per un dato politico, di policy, di cultura e di salute, di sanità pubblica, ma dal punto di vista dell'argomento è un po' debole, perché non diremmo la stessa cosa rispetto a qualcosa che non abbiamo ancora dimostrato essere non immorale. Capisco che è un po', concentrato e complesso quello che ho appena detto, però insomma dobbiamo attaccare la premessa dell'equivalenza di diritti o provare a dimostrare, comunque ci sono c'è una filosofa molto nota in questi dibattiti che si chiama Judith Gerbit Thompson, che l'ha fatto, cioè ha dimostrato anche che concedendo generosamente dei diritti fondamentali comunque non potremmo giudicare una gravidanza imposta come moralmente ammissibile, perché poi ci dimentichiamo anche sempre, in maniera forse intenzionale in questi dibattiti, che l'unica alternativa alla possibilità di dare la possibilità alle singole donne di scegliere per la loro gravidanza, per la loro gestazione, beh, l'unica alternativa è obbligarle a portare avanti una gravidanza. E anche, diciamo, il modo attraverso cui raccontiamo una conseguenza cambia un po' le reazioni, no? Perché se ci facciamo caso, un conto è dire noi siamo contrari all'aborto, un conto è dire noi siamo a favore della gravidanza imposta. Però, ecco, essere contro l'aborto di fatto porta lì. Quindi anche cominciare a pensarla da questo modo di descrivere può cambiare un po' le reazioni, perché qui ci sarebbe un problema innanzitutto di moralità, di sanità pubblica, ma anche un po' di strumenti, cioè come possiamo fare a obbligare una donna che non vuole a portare avanti una gestazione? È moralmente ammissibile? È clinicamente corretto? Saremmo d'accordo? Insomma, ci sembra che una buona legge dovrebbe fare questo, imporre alle donne che hanno che sono rimaste incinte e che non vogliono un figlio o non ne vogliono un altro, dobbiamo obbligarle? Ecco, sì, un'ultima domanda, visto che già in queste tue risposte, diciamo, si capisce che il livello del dibattito sarebbe molto più alto di quello che poi porta anche alla costruzione, diciamo, di leggi come quella approvata in Alabama, ti chiederei una valutazione, diciamo, secondo te se è diverso il livello del dibattito negli Stati Uniti, dove appunto abbiamo visto l'approvazione di questa legge proprio in queste ore, però allo stesso tempo si è visto anche appunto il rischio concreto che molti palesino che poi questa legge venga portata davanti alla Corte Suprema, quindi raggiungendo un livello, diciamo, al di fuori, diciamo, dell'Alabama, rispetto per esempio al dibattito in Italia, dove comunque abbiamo visto il congresso delle famiglie molto di recente. È una domanda abbastanza complicata ed estesa, ovviamente, insomma, mi viene da dire ci sono molti modi per rendere un diritto sulla carta non applicato davvero. Un modo ovviamente è attaccare sulla carta quel diritto, quello che sta facendo l'Alabama, cioè cambiare la legge, d'accordo? Un altro modo è quello che conosciamo bene in Italia e non solo, cioè non controllare in maniera adeguata l'applicazione della legge e quindi gli altissimi numeri di obiettori di coscienza, perché naturalmente se una legge rimane solo un principio teorico ma non ci sono più gli operatori che garantiscono un servizio, il risultato è più o meno simile al divieto. Rimane una possibilità soltanto teorica e poi non c'è nessuno che di fatto garantisca questo servizio. Sul congresso delle famiglie, qui si aprirebbe un altro capitolo molto lungo. Io direi che sarei già felice se il congresso delle famiglie fa il lavoro che fa, cioè fa il congresso delle famiglie così come il Papa fa il Papa o i conservatori fanno i conservatori. Quello che già sarebbe così uno scenario augurabile è che la parte, se ancora esiste, un po' più liberale e un po' più raziocinante si incaricasse di fare la propria parte e quindi applicare bene la legge, fare un lavoro di informazione un po' più soddisfacente, garantire un servizio sanitario, perché poi finiamo quasi sempre a parlare di aborto volontario come se fosse soltanto una questione morale. Certamente ha un profilo morale abbastanza rilevante, più di andare a togliersi il neo ovviamente, però rimane anche una questione medica, rimane una questione di sanità pubblica e di salute pubblica. Quindi ricordarsi che c'è un fronte che include la formazione dei medici e la possibilità per esempio di accedere più facilmente alla RU486, cioè l'aborto medico, la possibilità di scegliere, l'alleggerimento di uno stigma e di una condanna morale, no? Il fatto che di aborto se ne parli così poco e spesso così male è un altro sintomo della salute zoppicante sia del diritto sia del dibattito. Quindi ci sono tante strade che si possono percorrere e come sempre dipende molto dal come decidiamo e come siamo in grado di percorrerle.